Tra le grida che crescono nella folla c'è Santo, Santo. In attesa della canonizzazione chiesta dai cattolici di tutto il mondo, il 1 maggio la città di Roma celebrerà la beatificazione di Giovanni Paolo II. Questa domenica, Radio 24 dedica all'evento una diretta speciale. Una staffetta tra Milano e la capitale, con ospiti, collegamenti da Piazza San Pietro, testimonianze, emozioni e ricordi legati alla straordinaria figura di Karol Wojtyla. Non abbiate paura! Speciale Beatificazione di Giovanni Paolo II. Questa domenica dalle 9 alle 12 su Radio 24.